C'est Radio Alma, le meilleur de la musique. Oggi di che colore sei, o meglio quale non serai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Buonasera, buonasera a tutti radioascoltatori dei Colori dell'Anima. Benvenuti ancora con noi per lunedì sui Colori dell'Anima su Radio Alma. Oggi 9 marzo 2015 e siamo in studio con voi e con la mia carissima amica Tiziana. Ciao a tutti ragazzi. Tiziana, oggi siamo soltanto due femminucce, anzi no, mi sa che i nostri radioascoltatori se ne sono accorti che manca qualcuno che ha un timbro di voce. Il nostro vocione del lunedì manca. Un po' esuberante, però dobbiamo dire che con noi qui in studio invece abbiamo un ospite segreto, un ospite molto speciale, che tra poco vi sveleremo chi è, però insomma, come diciamo al solito niente. Vi vogliamo fare un po' cuocere nel vostro brodino, piano piano, lentamente. Questa sera si parla di musica, si parla di grande passione per la musica e anche di grande coraggio, e con noi Tiziana adesso ci spiegherà un po' perché si chiama questa trasmissione Colori dell'Anima, perché lei è così brava che io non voglio mai interferire. Ma prego, assolutamente, Tiziana. grazie, ma i nostri radioascoltatori lo sanno, chi ci ascolta da tempo sa che la trasmissione si chiama I Colori dell'Anima perché cerchiamo di dare voce a quello che è l'animo umano, dare voce ai vari aspetti che può avere l'animo umano, e questa volta ci siamo scelti un cantante, un artista, uno scrittore che ha tanto da raccontarci, da farci sentire. Esattamente, però prima di andare ad ascoltare io vorrei un attimo ricordare ai nostri amici da casa che siamo ben felici di avere i vostri commenti, i vostri messaggi, le vostre chiamate. Quindi partirei subito ricordandovi il numero di telefono al quale potete chiamarci, quindi se chiamate dal Belgio 02345 2656, oppure mi raccomando scriveteci su Facebook all'indirizzo Rossella Tiziana e Leandro Oneir. Grazie assai, esattamente quello, mi raccomando. E innanzitutto salutiamo ai fedelissimi Dino Corvo che ci ascolta sempre. Ciao Dino, e ancora grandi, scriveteci, fateci sentire. Oggi è una trasmissione interessantissima. Esatto, non solo per la comunità italiana, ma anche per la comunità belga proprio in generale, che apprezza la buona musica, io direi. Assolutamente sì. E che ne dici, Tiziana, di cominciare con una bella canzone? Cominciamo con una bella canzone che tra l'altro non è scelta a caso, ma ci introduce il nostro ospite, poi spiegheremo il motivo. Cosa ci fai ascoltare, Tiziana, allora? No, dicelo tu. Te lo dico io, perché manca Leandro, hai visto? Lui ci interrompeva sempre e noi eravamo sempre lì pronte a farci interrompere, hai visto? Manca il pezzo grosso. Allora, noi vi facciamo ascoltare José Josephine e poi vi spieghiamo il perché. Buon ascolto. Ciao. Mi sa che José Josephine non vuole entrare. Qui abbiamo un piccolo problemino tecnico che adesso risolveremo, ma nel frattempo che Tiziana risolve, Io vorrei un attimo ricordarvi che ogni lunedì potete collegarvi dalle 21 alle 22 su www.radioalma.eu e ad ascoltarci in streaming sui colori dell'anima. Ogni volta, ogni lunedì ci sono quattro squadre diverse che si alternano e quindi noi vi invitiamo, insomma, a farvi sentire. È una radio Alma che dà spazio a tutte le varie comunità straniere che vivono a Bruxelles, e il lunedì dalle 9 alle 10 ascolterete un po' di italiano. In realtà ci sono anche altri programmi in italiano, però ecco, il lunedì è quello nostro e voi siete fortunati. Perché Tiziana è un mago succede. Della regia e allora quindi José Josephine 5.2 À l'arrière de Berlin, on devine des monarques et leurs figurines. Juste une paire de demi-dieux, livrés à eux. Ils font des petits, ils font des envieux. À l'arrière de Topi, je suis le roi de scélérat à qui sourit la vie. Insieme su i colori dell'anima. E rieccoci in studio con i colori dell'anima. Eccoci. E ora entriamo nel vivo della serata. My God, Tiziana, ti sento un po'. Sto iniziando a emozionarmi perché tra poco introduciamo l'ospite, quindi io sono tutto un fervore. Esattamente. Io vorrei salutare i ragazzi che ci scrivono su Facebook. Cioè abbiamo Elena Capobianco e sappiamo che con lei c'è Leana. Ciao Leana, ascoltaci, dici cosa ne pensi. Perché appunto ho avuto una soffiata, come si dice in italiano, del tema di questa sera. Però ecco, io mi sa che svelerei un po' chi è il nostro ospite segreto. Sì. Un ospite appunto molto speciale, il partecipante di un concorso musicale belga, The Voice, il quale è arrivato... The Voice? Belgique, excusez-moi. The Voice, perché ci sono diversi The Voice ormai in giro per tutta l'Europa, e forse non solo. No, The Voice Belgique, noi siamo in Belgio e parliamo di The Voice Belgique questa sera. Il nostro David Cage, buonasera caro David. Buonasera Rossella, buonasera Tiziana. Ciao David, benvenuto. Benvenuto e soprattutto grazie per essere qui con noi. E grazie anche per averci fatto ascoltare questa bellissima canzone, che il cui testo originale è stato cantato da Alan Bashung, ma in realtà questa versione che noi abbiamo ascoltato è una versione nella quale canti tu e insieme alla tua compagna di duetto. Esatto. Ovvero anche duello, come ci spiegavi, quindi, ed è una canzone particolarmente importante per appunto il tuo cammino in questa competizione di The Voice. Sì, certo, questa canzone l'ho cantata live sulla Une della RTBF la settimana scorsa. Ah, quindi è proprio recente. Esatto. Ok. E niente, faceva parte della seconda tappa di The Voice in Belgio. La prima tappa è il blind, praticamente dove loro si girano. Sì, io ecco, sì, ci ho presente proprio questa scena quando arrivano, esatto. Quando arriva il cantante o la cantante che propone la sua canzone e i coach danno le spalle, quindi non vedono chi è che sta cantando, e proprio per non farsi influenzare dall'immagine, immagino che sia esatto. Pensata. Esatto, Rossella, tu arrivi praticamente... Tutto a un tratto ti ritrovi su un plateau di televisione, e niente, stai suonando a quattro persone che ti stanno di schiena, e se gli piaci si girano, se si gira più di uno, dunque sei tu che scegli. E niente, io ho scelto la mia squadra, sono andato nella squadra di un bellissimo artista francese che si chiama Stanislas. Mm-hmm. E niente, dunque... E lui ti guiderà in questo percorso, sì, esatto, fino alla fine coach. Della competizione. Sì, il mio coach. Ma invece ci dicevi, David, che è un concorso molto competitivo, perché poco fa ci ha dato un po' di numeri, noi eravamo un po' sì. Incredule. Certo. Quanti sono coloro che si presentano alle selezioni di questo concorso, che è annuale, ricordiamo? Esatto. Beh, in Belgio si presentano almeno 4.000 persone, okay. Che diciamo per il Belgio è abbastanza. Certo. Per l'Italia non è nulla. X Factor si presentano tipo 60.000 candidati, dunque è molto più difficile, però stiamo parlando di un paese più grande. In Belgio sono 4.000 e niente, ci sono molti casting, mi sa che ho dovuto passare 5 casting diversi per arrivare al blind, e dopo nei blind 120 cantano al blind. 120. Ma io leggevo che la prima parte viene fatta in parte anche online, cioè esatto. Si propongono dei brani online, esatto. E del pubblico web, esatto. Che li vota e decide. Sì, 4.000 persone vanno online e praticamente cantano sulla loro webcam. Uh-huh. E dopodiché loro ti invitano a fare quella è la prima parte del casting, poi ti invitano a cantare davanti a qualcuno, poi ti intervistano, poi devi ricantare. E poi un'altra intervista. Quindi è prima del casting questa? Prima del duello. D'accordo. E come ci si sente prima del blind. Ah, ok. E come ci si sente quando uno comincia questa strada? Cioè, ci si sente folli che uno si mette in mezzo a questa marea di gente? Per me era... Prima di tutto, ti dici sei a casa, dici vabbè vado sul sito, poi vai, clicca fare casting, fai il casting, tutto un tratto, puff, c'è la videocamera, c'è 30 secondi per cantare. Io ho cantato... Sì, poi se vuoi devi cantare a cappella, se vuoi ve la canto. Se vuoi, sì, no, sì, vai. Ho cantato questo, ho fatto... Se tu sei vicino a me, sognando insieme a te, la vita è tutta rosa, è una musica d'amor che sento in fondo al cuor, nell'aria in ogni cosa, le parole che sai dir, più lievi di un sospir, non possono mentir, and when you speak angels sing from above, everyday words seem to turn into love songs. Quand je la prends dans mes bras, elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. cantato questo. Wow, wow. Abbiamo una pelle d'oca qua. Se metti un pulsante io lo schiaccerei. Si è girata Tiziana e si è girata Rossella nel... Wow, quindi ma questa è beh, chiaramente l'avranno riconosciuto tutti i nostri radioascoltatori, l'Edith Piaf, La vita è rosa, La vita è rosa, riadattata in italiano, molto bella. Sì. Senti, ma qua abbiamo detto che siamo a The Voice Belgique, i nostri radioascoltatori dice: ma com'è che si chiama David Cage e parla in italiano? Aspetta, cioè, non ci stanno capendo più niente, giustamente. Ma non è che noi facciamo le cose semplici. Noi diciamo che prendiamo The Voice Belgique perché vogliamo parlare di The Voice Belgique, ma sempre un italiano o qualcuno che ha a che fare con l'Italia andiamo a prendere alla fine. Chiaramente, David, raccontaci un po' chi sei, da dove vieni. Io sono... Facciamo uno step indietro. Esatto, adesso. Io sono mezzo inglese, mezzo italiano. Mio padre è sardo, della zona di Sassari, Alghero. Mia mamma è inglese. E niente, io sono nato in Inghilterra, dopodiché ho vissuto 9 anni a Taranto, in Puglia. Ah, qui abbiamo un mezzo isolano, mezzo inglese, abitato nel sud. Sì. E poi a 9 anni sono andata a vivere a Lussemburgo, dove ho imparato il francese con la mamma. Mamma era militare, lavorava per un... Sì, praticamente abbiamo... A Taranto c'è Idroscalo Luigi Bologna, sì. A Lussemburgo c'è la NATO e a Bruxelles anche c'è la NATO. E niente, poi a 5 anni a Lussemburgo sono venuta a vivere a Bruxelles quando avevo 14 anni. Ok, quindi sei appunto un cittadino proprio europeo, come... Sì, sì. Piano piano sto scalando, diciamo, dal sud al nord l'Europa. Te la stai facendo in lungo e in largo. Sì, sì. Poi sono andato a vivere a Londra dopo Bruxelles. Sì. Adesso sono tornato, vivo qui ormai da 6 anni ormai. Da 6 anni. Senti, ma io farei un attimo uno step indietro. Ti chiederei un po' questa passione per la musica, da dove parte, perché ecco, se tu oggi sei arrivato a The Voice Belgique c'è chiaramente un lungo percorso, ci sono stati vari momenti dei quali speriamo di riuscire a parlare di tutto. Certo. Però ecco, da dove nasce questa passione? La prima domanda che mi viene voglia di farti. La prima canzone che ho mai cantato in pubblico, avevo 6 anni e al saggio di scuola ho cantato Adesso tu di Eros Ramazzotti. Dove eri in Puglia? Quanti anni avevi? Scusa? Avevo 6 anni. Mamma mia. Sì, avevo 6 anni. E mi ricordo, sì, le mani sul lato con i pugni che facevano "E ci sei adesso tu". E... stonatissimo, evidentemente. Beh, 6 anni, insomma. e da lì, non lo so, forse avevano capito che ero un ragazzino abbastanza, diciamo, estroverso da quel punto di vista. Però io sono un figlio degli anni 90, ho imparato la chitarra, a suonare la chitarra a 12 anni, e grazie al mio migliore amico. Lui prendeva le lezioni, Edoardo prendeva le lezioni di chitarra, poi tornava a casa e il giorno dopo me le faceva vedere a me. Ah, quindi grazie Edoardo, è il momento di ringraziarlo. E niente, sì, così piano piano ho iniziato i gruppi a 14 anni, però la mamma ascoltava molto la musica anni 80. Gli piaceva, come si chiama quello là? Sì, Umberto Tozzi. Sì. Ecco, mamma, gli piaceva tanto Umberto Tozzi. Ma penso che a tutte le nostre mamme piace, sì, Umberto, sì, i nostri genitori, perché comunque abbiamo un'età simile, quindi siamo della stessa, esatto, generazione. Ma come direbbe mia mamma, che in inglese direbbe Umberto Tozzi. Umberto Tozzi, ah, nice. Lei, mia mamma, specialmente, non so se vi ricordate, c'era lo sketch di Enrico Montesano, che lui, mia mamma è una quella... La gentile signora inglese dice: Salvatore, tutta calda tutte le ore. Io ho rimosso. Chiediamo ai radioascoltatori di intervenire immediatamente. Sì, sì, scriveteci che cosa ne pensate. Io vi interrompo perché vorrei subito andare a una delle canzoni di David, in modo da addentrarci un po' nel suo percorso musicale. Partiamo con la canzone, direi, e poi iniziamo a parlare del perché, per come, da dove nasce questa canzone. Iniziamo a fare un po' di domande. Che cosa ne dite? Allora, io direi che partiamo con Fall Into Place del disco The Dreamer Evasive, quando David faceva parte del gruppo Apartment. Thank you. colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Ed eccoci tornati in studio, amici radioascoltatori. Stiamo trasmettendo dalla Maison de Culture di Saint-Gilles. Abbiamo un grande ospite oggi, un cantante, musicista, un artista completo a 360 gradi, che per il momento sta partecipando a The Voice, ma ha fatto tanto altro. Diciamo che questo è solo l'ultimo step, uno degli step nel suo cammino, sì, abbastanza vasto, che è cominciato all'età di 6 anni con una canzone cantata a scuola. Hai visto dove si arriva? E abbiamo appena ascoltato una delle sue canzoni. Esattamente, è una canzone anche molto bella. Volevo assolutamente complimentarmi con David, perché ecco, come gli dicevo, ho veramente avuto l'impressione di averla sempre conosciuta. Che questa sia una bella canzone, molto orecchiabile, decisamente. Sai, l'ho ascoltata ieri sera, perché ecco, ci siamo un po' scambiate le informazioni, e l'ho ascoltata ieri sera e adesso l'ho ascoltata e ho detto, ah sì, ecco, è quella. E quindi ha questa capacità un po' di stimolare un po' di inserirti in qualche cassettino della tua mente. Scrivere una canzone semplice, però che ti sa dire qualcosa, che riesci a ricordarti, è un'arte abbastanza difficile. C'è voluto tanta strada, tante permutazioni, tante canzoni scritte per scrivere una buona. Forse ne scrivi 50 brutte per quella buona, però... Prima o poi quella buona esce fuori, e questa di sicuro mi sembra una delle buone. Tra l'altro tu mi raccontavi che questa canzone in particolar modo è stata utilizzata in alcuni videogiochi, in alcuni spot pubblicitari. Esatto. Giusto così, se qualcuno l'abbia mai sentita. No, ma questa canzone era in un videogioco FIFA 2008. Ah, ecco, quindi i nostri maschietti che ci ascoltano sicuramente l'hanno riconosciuta. Ed era la canzone, diciamo, faro del videogioco. Poi questa canzone è stata anche sulla pubblicità della Calvé. Hellman's Mayonnaise, sulla maionese. Ah, ecco, abbiamo venduto la maionese. E vai! E la maionese però ha venduto un po' anche te. Esatto, no. Noi ci ha comprato la maionese. E dopodiché, in Inghilterra è stato in tante pubblicità. È strano perché ormai nel mondo della musica non riesci veramente a più generare soldi attraverso le vendite degli album, perché la gente downloada, specialmente i ragazzi downloadano illegalmente e vi discorrendo. Certo. Mentre ora il modo in cui... diciamo guadagni un po' di soldi e facendo queste pubblicità oppure i link. Per esempio, noi ci abbiamo cose strane. Per esempio, una canzone che abbiamo scritto noi l'utilizza l'FC Copenaghen, la squadra di calcio del Copenaghen, addirittura per entrare in campo. Ma David, dove l'hanno presa? Dove l'hanno trovato? Sono curioso, perché questo è sempre noi nel io allora. Ecco, e poi chi è noi? Aspetta, ecco. Allora io dopo a 18 anni sono andato all'università, sono andato in Inghilterra, mi sono laureato e dopodiché ho deciso di veramente seguire il mio sogno e sono andato a vivere a Londra. Prima all'università stava a Brighton e a Londra ho iniziato un gruppo e questo gruppo si chiamava Apartment, che è proprio il gruppo di cui abbiamo appena ascoltato la canzone. Questo gruppo mi ci è voluto un bel po' di tempo, un bel po' di lavoro per diciamo essere riconosciuto a Londra. Siamo diventati abbastanza, diciamo, conosciuti sul circuito di Londra. Avevamo un manager molto buono. Ne abbiamo avuti più di uno, però vabbè, alla fine abbiamo avuto uno molto buono e questo qua ci ha firmato con l'Universal. Ah, e una volta firmati con l'Universal abbiamo potuto fare un album, abbiamo fatto 9 single e le nostre canzoni sono state, diciamo, messe con prodotti per cercare di creare un po' di, diciamo, un po' di soldi. Certo, vabbè, sono state, vabbè, come ci dicevi appunto, se non c'è qualcuno, un buon manager che ti promuove il tuo prodotto, perché come dicevi prima, adesso ecco, l'industria musicale, prima mi parlavi appunto del fatto che la musica si il tuo prodotto personale, però deve essere anche venduto. Esatto. No? Se vuoi. Deve arrivare all'orecchio agli ascoltatori. Certo. Esatto. E siccome c'è così tanta musica nel mondo, mentre prima forse sarebbe stata vista come una cosa poco integra, diciamo, di fare una pubblicità, oggigiorno è veramente il modus operandi della maggior parte dei gruppi. Per farsi conoscere. Per farsi conoscere, certo. Esatto. E per anche guadagnare due soldini, perché è dura fare il musicista. Io sono molto, ma molto privilegiato di aver potuto, diciamo, guadagnare il mio pane facendo solamente qualcosa di cui sono appassionato. Non è una vita, diciamo, sfarzosa, però il bello, diciamo, i lati positivi sono altri. I lati, non è che tu vai in vacanza, vivi, capito? Non è che fai al lavoro, lavori. Sì, infatti, perché magari uno immagina, ah, che bello fare il cantante, ah, vai a fare il concerto. Però insomma c'è il tuo peso, perché ecco, sì, è una tappa, è un impegno, a parte un impegno, però come ci raccontavi tu, insomma. Cioè, nella vita come per tutto, nella vita per tutto, esatto, bisogna guadagnarselo, bisogna lavorare duro. Io per esempio a Londra, quando stavo cercando di diventare conosciuto col nostro gruppo, io lavoravo 6 giorni a settimana a Harrods, dando massaggi. Addirittura? E vendendo prodotti che massaggiavano, e poi ero in sala prove, io ero in sala prove 4-5 volte a settimana, dunque io lavoravo dalle 9 alle 6 e dalle 7 alle 11 stavo in sala prove col gruppo, e poi bisognava uscire, socializzare, farsi vedere, andare a concerti, imparare, ascoltare, scrivere. È una vita a mille all'ora. Certo, certo. Però ecco, mi sa che possiamo affermare che questo impegno ti ha portato lontano e ti ha portato oggi a far parte, ricordiamolo per chi si è appena sincronizzato all'ascolto, a far parte del concorso The Voice Belgique, esatto. E ad essere arrivato tra gli ultimi 32, esatto. Partendo da 4.000. Siamo agli stadi finali, ragazzi! Cioè, io oggi dicevo alla Tiziana, dicevo, ma ti immagini questo diventa veramente lui, finge lui, non l'abbiamo intervistato! Io comincerò a seguire The Voice Belgique, lo dico. Beh, chiaramente. Mi sto appassionando. Assolutamente. No. Tra l'altro, quando è che ricanti, David? Perché noi ti vogliamo seguire. Ecco. Io adesso canterò il 30 di questo mese. Il 30 marzo. 30 marzo. Il 30 marzo. Mi raccomando. Sur la Une. E sarà dal vivo. Ciò vuol dire che se stecco... Quanto veniamo a steccare noi, David? No, sì, è dal vivo e bisogna votare, per questo che mi aspetto che tu, Rossella e tu, Tiziana. Assolutamente sì. Ma come si vota? Si vota via telefonica, con il messaggino? Col messaggino. D'accordo, quindi possiamo sintonizzarci sulla televisione. Sì. La Une, RTBL. F. Ecco, bon, pardon. Quello è Lussemburgo. Ecco, già ho fatto macello. E votare, David, che si esibirà live. Sappiamo che non possiamo chiederti la canzone, però appunto, proprio per questa maggior ragione ti ascolteremo il 30 marzo. Assolutamente sì, l'aspetteremo. Perché appunto ci raccontavi che comunque si partecipa a questo concorso prevalentemente con delle cover, quindi nonostante appunto abbiamo visto che tu componi dei pezzi belli. Però lì devi arrivare con un'idea, devi decidere quale canzone portare. Come fai? Come decidi qual è la canzone che vuoi portare a un concorso? Sai, guarda, questi concorsi sono un formato, sono una piattaforma, sono un trampolino di lancio. Praticamente io ho sempre lasciato le cose al destino, sono molto flessibile. Siccome sono qualcuno che riesce a cantare tante canzoni, infatti io suono 3 volte a settimana qui in un bar a Bruxelles, vicino alla Grand Place. Possiamo sapere quale bar? Si chiama À l'Image Notre-Dame. Ed è sur Rue Marché aux Herbes. Ok. E niente, io sono là da giovedì, venerdì e sabato, dalle 9 all'1, e ho più di 150 cover. Sono come una macchinetta karaoke. metti il gettone in pelle e ossa, però. Esatto. Dunque, con The Voice, praticamente qualunque canzone mi vogliono che canto, sono più che contento di interpretarla. L'importante è interpretarla, fare in modo che sia tua. Io non ho paura anche di cambiare un pochino le canzoni. La cosa più importante è essere autentici. credo, mm-hmm, essere se stessi, essere anche se stessi in quel momento, fare diciamo il copia incolla non mi interessa. No, è vero, devo dirti che la prima cosa che ho notato quando ho ascoltato la canzone che hai cantato durante il blind, ho notato questo. Ho notato che l'avevi totalmente reinterpretata ed era particolare il modo in cui l'avevi interpretata tu. Secondo me sono rimasti colpiti da questo. Sì, se non sbaglio c'è stato proprio un commento in questo senso. Esatto, dire. Sì. Esatto. Beh, non è, lo sai cos'è? È strano, è una scuola di pensiero abbastanza anglofona, trovo. Per esempio, io trovo che in Italia, per esempio, sia, sono mezzo italiano, dunque lo posso dire, si ha tendenza a essere molto scolastici, mm-hmm, ok? Cioè vuol dire che prima bisogna studiare per fare la musica. Io, invece, in Inghilterra devi avere soltanto il cuore e basta, e devi buttarti. E poi la tecnica la acquisisci dopo. La tecnica è un punto di vista in Inghilterra. In Italia la tecnica è importantissima. Secondo me il giusto sta in mezzo da qualche parte, capito? Ed è per questo che tu sei italo-inglese. Proprio perché tu sei ho trovato esattamente il punto in mezzo. Sei riuscito a trovare il buono di entrambe le tecniche. Sono a un'ora di volo da ambidue. Dai paesi. Paesi, chiaro. Benissimo, allora io vi interromperei e proseguirei con la prossima canzone, che fa parte dello stesso album che abbiamo sentito prima, The Dreamer Evasive. E questa canzone si chiama My Brother Chris e ce l'ascoltiamo insieme e ne riparliamo tra pochissimo. Sides, surrender sides, the will to live. colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Buonasera a tutti, rieccoci in studio sui colori dell'anima, questa sera 9 marzo 2015 in diretta dalla Maison de Culture de Saint-Gilles e salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando, abbiamo un po' di commenti, Elena che ci dice è proprio bravo David e infatti ricordiamolo che qui con noi abbiamo David Cage from The Voice Belgique, ah, yeah. Che come suona bene proprio. Sì. E questa ecco un'altra canzone. Mm-hmm. Sempre dello stesso gruppo Apartment, sì, sì, sì. Che anche questa è un po' molto significativa per te, sì, sì. David. Ma infatti secondo me quando avete chiesto che canzoni volete che canzoni vuoi suonare ai colori dell'anima, questa canzone mi è venuta in mente perché è una canzone molto bella. Per me mi sta molto a cuore. Questa canzone parla praticamente del tuo migliore amico, del mio migliore amico. Io ho passato un momento quando stavo vivendo a Londra, un momento molto difficile dove tutto è mille all'ora, cioè pieno di speranze, lavori duro, giochi duro, canti duro, tutto era molto, sì, pazzesco, intenso, diciamo. Tutto a mille all'ora. Mille all'ora. E questa canzone parla del fatto che, secondo me, una delle cose più importanti nella vita è essere abbastanza umili. Però mettersi sul palcoscenico, devi buttare via quest'umiltà. E devi essere molto aggressivi da un lato, esatto, convinti. Bisogna essere convinti. E io utilizzavo sempre il mio migliore amico come per convincermi, perché anche lui era un cantante abbastanza conosciuto, più conosciuto di Apartment. Era in un gruppo che si chiamava Boy Kill Boy. E questo ragazzo, Chris Peck, eravamo molto vicini. E io tutti i giorni, tutte le volte che lo vedevo, gli dicevo: vai che sei bravo, dai, sei fortissimo, sei bravo, fai, dai, non ti preoccupare, vai. E niente, praticamente lo utilizzavo un pochino come uno specchio. Era un riflesso di me. Quindi tu davi il consiglio a lui, ma in realtà gli davi la carica da solo. Mi autocaricavo caricando lui, capito? Ed era, non so, forse una delle mie tecniche per sopravvivere nella sì, giungla che è Londra. Alla fine siamo persone, siamo le persone, i cantanti, gli attori, le persone più in vista, sembra quasi che non abbiano un'anima, ma la realtà è diversa e soprattutto per i cantanti, per chi deve trasmettere qualcosa con l'arte, con la musica, col disegno, con parlando al cinema, anche a teatro, devono farlo ancora di più perché devono riuscire a trasmettere qualcosa che sta dentro di loro, nella loro anima, attraverso un mezzo. E penso che sia anche difficile perché a un certo punto ci si aspetta qualcosa di più da loro, perché chi ti guarda sono persone che magari non ti conoscono. E quello che mi affascina sempre quando guardo un artista e provare a pensare cosa ci sta dietro, cosa sta dentro la sua anima. Ma sapete, Tiziana Rossella, che la cosa diciamo più difficile in tutto ciò, forse non è, prima di tutto, bisogna imparare a diventare un artista, in un certo senso. Io non mi chiamo artista, io sono musicista, e per gli altri chiamarmi artista. Io non è qualcosa che ti puoi autoproclamare artista. Okay. Qualcun altro ti dice, certo. Ah, lui è un artista. Io faccio musica, canto, cerco di essere me stesso, e la cosa più importante è bisogna vivere per raccontare una storia. E forse questa mi ha portato anche grandissime cose, però come vedremo forse con la prossima canzone che ci abbiamo sulla lista, e che questo può avere anche un lato molto difficile, molto negativo. Io ho passato un momento molto buio. Molto buio, sì, difficile. Difficile perché cercavo veramente di vivere ogni secondo, ogni momento in maniera così intensa, perché pensavo veramente che per raccontare qualcosa e per cantare in maniera autentica bisogna veramente mettere tutto sulle proprie spalle, portare ogni peso e sentire il peso di ogni cosa. Ed è una cosa che alla fine mi ha distrutto un pochino. È dura, bisogna avere una valvola di pressione che bisogna aprire di tanto in tanto, bisogna vivere la vita molto giorno a giorno. Io direi che potremmo ascoltare direttamente questa canzone, visto che ce ne hai parlato, sì. Se ti va, e poi continuiamo la nostra discussione. Che cosa okay. ne dici? La certo. lascio proprio presentare a te. Ok, beh, questa canzone è il mio ultimo progetto, si chiama The Beast, è dal mio ultimo gruppo che si chiama Age of Giants, e l'album si chiama The Wolves of Winter. Ecco a voi. Pros and nouns and open vowels will help my head get clear. Complicated, extra hated fear for four failed years. It's cold in the water. It's cold in the water. Jerry fled for months on end, a friend pretends to hear. He paid the price, bought something nice, and licked his wounds to heal. It's cold in the water. It's cold in the water. It's cold. In radio questa sera sui colori dell'anima abbiamo con noi David Cage da The Voice Belgique. Ragazzi, questa sera grande puntata, ricordiamolo per chi si fosse appena sintonizzato, David sarà in televisione il 30 marzo, quindi mi raccomando, ascoltate e votate il 30 marzo. Se avete sentito le sue canzoni, votate. Esatto, non vedo alcuna ragione per non votarlo, anzi ecco, come abbiamo appena sentito, questa canzone in realtà era Cold in the Water, una canzone molto orecchiabile, dicevamo con David, anzi mi diceva che è una delle più ascoltate dell'album Age of Giants. E però io, David, mi è piaciuto un po' quello di cui ci parlavi prima, no? Di questo tuo momento duro che appunto poi ha fatto nascere questa canzone The Beast, che poi ascolteremo alla fine della trasmissione, quindi ascoltateci fino alla fine. E quindi questo momento duro che è stato un po' scaturito da questo vivere a mille, voler vivere tutte le emozioni, però a un certo punto non hai tenuto più e è crollato un po' il muro. Ecco, però ecco, io adesso ti vedo e vedo una persona assolutamente equilibrata, tranquilla, sì. Quindi dove sta è stato un viaggio. Questo viaggio, sì, dove è il punto? Questo viaggio mi ha portato a Istanbul. Io da Londra sono scappato. Ah, ecco. Sono andato a vivere a Istanbul per un paio d'anni. Sono stato lontano da tutte le cose che mi erano care al mondo. E forse, beh, a 28 anni ho avuto un grandissimo momento di cambiamento. Però veramente le persone che mi hanno salvato, il posto che mi ha salvato è qui, a Bruxelles. Ah. Perché a Bruxelles io ho mia madre, ho mia sorella, ho la mia compagna, le donne nella mia vita mi hanno salvato. Infatti l'altro giorno era la festa della donna. Sì, esattamente. E dunque per me questo è stato, per me questo giorno è molto simbolico. Io sono un grande, sono stato cresciuto da donne mia nonna, mia mamma, ho vissuto solamente con mia sorella e mia mamma. Sono stato, diciamo, molto ispirato mm-hmm. dalle donne. Quindi dietro, è proprio il caso sì. di dire che dietro un grande uomo ci sono state tante grandi beh, donne in questo caso. Beh, non dietro, davanti. Davanti, sono, ti siete, hanno proprio sorretto. Siete le creatrici dell'universo. E per me questo è importante dirlo, giusto perché, diciamo, siamo il 9 marzo ed è ancora... Mi pare un, so, un bel omaggio da fare alle donne. Lo so che Tiziana era... Gli piace questo, sì. questa festa? Sì, sì, sì, sì, a me piaceva il fatto di ricordare che ieri sì. è stato l'8 marzo. Ma io ma vorrei, io vorrei molto un attimo... rosa. Ecco, ecco, io vorrei appunto, visto che stiamo avvicinando stiamo un po' verso chiudendo, la puntata... Stiamo chiudendo, ragazzi, io infatti vi stavo per interrompere, perché noi volevamo farvi sentire qualcosa sì, live. Esatto, adesso ci, il nostro vibe. David sì. adesso ci fa sentire qualcosa che tra l'altro... Assolutamente sì. Ha sorpreso, che mi ha detto fai quello che ti senti, e però vogliamo un attimo ricordare che appunto questa trasmissione si chiama I colori dell'anima, e tra poco chiederemo a David, prima di chiudere, qual è il colore che lui attribuisce a questa trasmissione, quali sono le sue emozioni che sono scaturite, quale colore dare. Ma intanto però... lo facciamo cantare per noi. Sì, noi sì. Lo sentiamo? Aspetta un attimo. E se non lo sentite, ascoltatelo il 30 marzo, mi raccomando, sulla Yun. Vabbè, diciamo il colore di questa di questo incontro è perché voi siete isolane e io anch'io sono mezzo isolano. Il colore direi che è turchese, dai. Turchese. Turchese, tra l'azzurro e il verde, il colore del mare, del bel mare. Scusate, parlavo sola, non avevo attivato il microfono. È come il colore del mare, il colore del cielo, il colore anche dell'infinito, esatto. se si vuole. È molto bello stare in riva al mare e guardare nel nulla, è una cosa veramente che ti toglie tutti, diciamo, le pesantezze. Sì, e questo forse è difficile, è una delle cose difficili vivere a Bruxelles. Infatti voglio cantare Torna a Sorrento. Per voi, David Cage. Viro mare quanto è bello, spira tanto sentimento, e a tu chi tieni in mente, cascetata fa sognare. Guarda qua chi stu giardino, siente se ste sciure arance, nu profuma così fino. Dinto cuore se ne va e tu dici parte addio, da lontana da stu cuore, da sta terra dell'amore, tieno cuore a non tornare, ma non me lascia, non darmi su turmiento, torna Sorrento. Fammi campare. When we kiss, my heart's on fire, burning with a strange desire. And I know each time surrender all your love so warm and tender. Let me hold you in my arms, dear, while the moon shines bright above. All the stars will tell troppo bello questo momento di poesia, a parte che è venuto un acuto, ho detto mo aspetta che mo si è venuto qualcosa si è inceppato, invece non si è inceppato niente. Complimenti, veramente. Grazie. Un momento bellissimo. Grazie. E poi beh, mi piace molto anche che canti in diverse lingue. Sì, è una sì, cosa che bellissimo. No, ma poi è proprio, ragazzi, votatelo il 30, votatelo il 30, voice, seguitelo, votatelo, chi può venga a Bruxelles a sentirlo dal vivo. Esatto, noi ci organizzeremo sicuramente, ci organizzeremo assolutamente. Noi abbiamo qualcuno che ci ha chiamato. Cufu, dicevamo che ci mancava un maschietto nella puntata. In realtà uno c'è. Uno ce l'abbiamo, però diciamo che il nostro maschietto è di tutte le nostre puntate è oggi non c'è stato. Leandro? Viva le donne! Tanti auguri a tutte le donne, anche se in ritardo. Ciao David! Ciao Leandro, ciao! Dove sei? Il mio voto assicurato giorno 30. Sei veramente un grande. Grazie veramente per tutto quello che hai detto. Grazie soprattutto per esserti mostrato per quello che sei, veramente. Grazie. Un uomo con la U maiuscola. Io voglio essere brevissimo questa volta e ti voglio donare una piccola frase di Tagore che mi ha ispirato, proprio in quanto cantante e in quanto musicista. Tagore dice: Dio mi rispetta quando lavoro, ma Dio mi ama quando canto. Ciao Davide. Grazie Leandro, grazie, sei fantastico. Ecco, la frase di Leandro però ci mancava, grazie Leo, veramente. Ci sei mancato stasera, siamo contenti che ci hai ascoltato. La prossima volta sappiamo che sarai con noi, fai di tutto per esserlo. Ti salutiamo, un abbraccio grossissimo e grazie per questa bellissima frase che ci hai donato. E il 30 si vota Davide, in bocca al lupo! Tutti insieme! Esatto. Sì, assolutamente sì. Mi potete anche trovare su Facebook. Ah sì, ecco, sì, ripetiamo. Sì. Ora mettiamo il riferimento... Leandro ci ha lasciato. Riferimento sul sito internet, però diccelo per favore. Sì, sì, no, giusto Facebook, I am David Cage. I am David Cage. Poi parla okay. Bene l'inglese, no? Che dite? Comunque, ecco ragazzi, grazie veramente David di essere stato con noi.